Radio Delfino per ascoltare le ultime sull'invasione dei folletti. Hanno preso il ponte i valichi, stanno arrivando, tamburi e risate nell'oscurità, arrivano! Viva! Hurra!